sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Malpensa e Linate riaperti poco fa dopo la nevicata di stanotte, scuole chiuse a Genova, molte strade bloccate in tutto il centro nord. E col freddo la Russia interrompe le forniture di gas all'Europa, ci dice il ministro Scajola, siamo tranquilli, Barroso all'attacco, non possiamo essere l'ostaggio di Mosca e Kiev. A Gaza si parla di tregua, Israele accetta di fermare i bombardamenti per 3 ore al giorno per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. Il PD ad una nuova resa dei conti, oggi il coordinamento del partito dopo le dimissioni di Nicolais da segretario provinciale di Napoli, a tenere banco le registrazioni dei suoi incontri con il sindaco Iervolino, effettuate dallo stesso sindaco. Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha depositato questa mattina in Cassazione le firme, 1 milione, contro il lodo Alfano, che garantisce l'immunità alle più alte cariche dello Stato e al Presidente del Consiglio. Va a Roma il primo premio della Lotteria Italia, 5 milioni di euro, mentre vince il secondo premio un biglietto venduto a Ceccano, provincia di Frosinone, con 3 milioni di euro. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Tra poco naturalmente andremo a Gaza per avere tutti gli aggiornamenti su questa sorta di tregua che sta maturando, ma prima di tutto andiamo sulle strade e autostrade del nord Italia, Alessandra. Eh sì, perché la neve ormai sta cadendo da più di 48 ore, in questo momento a Milano siamo in grado di vederle anche dalle nostre finestre di Radio 24, continua a cadere copiosa la neve. Ci colleghiamo con Roberta Pellegatta perché a Milano si è appena svolta una conferenza stampa del sindaco sulla questione della possibilità di spazzare la neve dalle vie della città. Roberta, allora, cosa ha detto il sindaco? Sì, buongiorno. Devo dire che il sindaco giudica la situazione assolutamente regolare. La neve a Milano sta scendendo ormai senza interruzione da lunedì sera, sono 30 sino ad ora centimetri depositati, se ne aspettavano meno, però nonostante l'eccezionale nevicata la situazione a Milano secondo il sindaco è buona, questo perché i cittadini hanno accolto l'invito del comune a utilizzare i mezzi pubblici, quindi ci sono poche auto in circolazione, nessun incidente oggi è stato registrato, le 3 linee della metro funzionano regolarmente, c'è stato un problema sulla linea 2 però risolto. I mezzi pubblici sono tutti operativi, in tutto 1500, le scuole sono aperte, lo sappiamo, e oggi in quelle pubbliche era presente l'85% degli studenti. Esiste, non si può negare, una criticità sale. La protezione civile ha sbloccato, ha detto il sindaco Moratti, i camion carichi di sale che erano fermi nelle zone di Cuneo e Alessandria, per cui entro stasera dovrebbero arrivare le scorte necessarie. Per cui tutto sommato, a parte qualche disagio, a parte qualche rallentamento dei mezzi, tutto procede. Sì, Roberta, il sindaco dice che è tutto tranquillo, in realtà... Insomma, qualche disagio da parte dei cittadini si è registrato e più di qualche disagio viene da dire. Sì, perché io ho fatto un giro oggi nella Milano innevata, ho sentito il parere dei cittadini, delle persone che si sono alzate questa mattina per andare a lavorare, anche di qualche taxista, e devo dire che i giudizi non sono stati teneri. Insomma, i milanesi non sembrano giudicare positivamente i lavori messi in atto per contrastare l'emergenza neve, ma sentiamo. La situazione è tragica secondo me, comunque di spazzaneve ce ne sono in giro ma pochi, non tanti. Nelle vie principali riesce a muoversi, solo che va dentro in qualche altra via non ne esce più. Pessima, purtroppo. Ma lei come circola di solito a Milano? In moto. E oggi ha scelto la metro? Metro e mezzi, la metro funziona ma i mezzi ahimè... Ma quali mezzi pubblici, signora? Quale? È vergognoso, perché dalle 8:20 sto in Montecenere e non è passata nessun pullman. Sono appena rientrata da Venezia, aspetto almeno un taxi. Milano con la neve è un disastro. Guardi che strade. A guardarsi è bello, sì, uno che si deve muovere per bisogno credo che fa tanta fatica. E questi erano alcuni cittadini di Milano, noi ora ci spostiamo a Genova dove le scuole sono chiuse. Marco Lignana, cosa sta succedendo? Qui a Genova la neve è un po' un evento straordinario, i disagi quindi non mancano, ma la città tutto sommato sta reggendo bene. Ha nevicato tutta la notte sia sulle alture che sulla costa, le scuole e le università come avete detto sono chiuse, alcuni voli all'aeroporto sono stati annullati mentre la prefettura ha vietato la circolazione ai mezzi pesanti, per questo al porto i camion giunti sui traghetti sono bloccati, i treni invece sono in larga parte garantiti in tutta la Liguria, anche se il maltempo ha provocato cancellazioni e ritardi. Le zone critiche sono ovviamente le alture, alcune neppure raggiunte dai mezzi spargisale. Le due stazioni ferroviarie principali e la fermata della metro in pieno centro rimarranno aperte anche di notte fino a domenica per accogliere i senza tetto, costretti ad affrontare temperature intorno allo zero. Disagi dunque ci sono, ma qualcuno si sta anche godendo un'insolita Genova innevata. I più scatenati, potrete immaginarlo, sono i bambini che si sono dati appuntamento in spiaggia per sfidarsi a palle di neve. Sentiamone qualcuno. Giochiamo a palle di neve dalle 9, ci divertiamo tanto. E la mamma non si arrabbia? Ah, mamma no, sta a casa a dormire lei. Siamo noi che invece di andare a scuola veniamo qua in mare a giocare. Ci prendono la palle di neve, ci distruggono i pupazzi. Gli distruggiamo intanto quello, poi ne hanno fatto uno su, glielo distruggiamo. Divertentissimo! Non si va a scuola, per fortuna, era meglio se nevicava domani perché avevamo una verifica. Sono tutta bagnata però va bene, basta che non mi prenda la febbre. A Torino adesso Marco Ferrando, nel capoluogo piemontese, qual è la situazione? Di nuovo buongiorno da Torino, qui la nevicata prosegue abbondante, prosegue qui a Torino ma praticamente in tutto il Piemonte. In città si sono accumulati ormai almeno 30 centimetri, ma secondo l'ARPA qua regionale si potrebbe arrivare al mezzo metro e forse anche oltre, visto che è prevista neve almeno fino a domani mattina. Naturalmente inevitabili disagi per chi si mette in macchina. Il comune di Torino ha fatto sapere che al momento sono in attività 200 mezzi spartineve, ma soprattutto nelle vie laterali, così come in collina, è difficile muoversi senza catene. In compenso i mezzi pubblici sembrano circolare abbastanza regolarmente. E più che sulle autostrade, dove la circolazione è complice anche il blocco dei tiri in alcuni tratti, più che sulle autostrade, dicevamo, i disagi maggiori si sono registrati all'aeroporto di Torino Caselle, chiuso per tutta la mattinata. Tecnicamente lo scalo ha riaperto alle 12:15, e i primi decolli sono previsti a minuti. Infine le previsioni, prevista neve diciamo fino alla serata di domani, spostandosi sul Nord Piemonte. È tutto lì nello studio. Grazie Marco Ferrando, avete dunque sentito Caselle, Malpensa, Linate, Ori al Serio, aeroporti che sono stati riaperti in tarda mattinata. Naturalmente i disagi e i ritardi proseguono. E per quanto riguarda invece il traffico ferroviario, il gruppo Ferrovie dello Stato ha attivato il cosiddetto piano neve, che prevede limitazioni della circolazione e della velocità, oltre a specifici accorgimenti tecnici. Alcuni problemi si stanno registrando per la presenza di ghiaccio sulle linee elettriche di alimentazione dei treni e sui pantografi dei locomotori. Sì, tra l'altro rallentano anche le linee ad alta velocità, naturalmente. Adesso ci spostiamo, andiamo in Medio Oriente, come vi dicevamo in apertura, perché in qualche modo qualcuno sta annusando l'aria di tregua. Se è così, lo chiediamo a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, sembra i carri armati dello Stato ebraico si sono ritirati da Khan Yunis. Questo gesto va interpretato in qualche modo? È normale strategia di guerra o un segno che qualcosa sta cambiando? No, bisogna andare cauti per cominciare, perché prima che inizi una fase di cessate il fuoco c'è sempre una fase, anzi al contrario, molto violenta di combattimenti, perché le parti cercano di conquistare o mantenere le posizioni necessarie. Ma in realtà gli israeliani non erano mai restati dentro Khan Yunis con i carri armati, cioè erano entrati ieri, avevano colpito i loro obiettivi ed erano usciti, così come non avevano mai combattuto nemmeno nel cuore di Gaza, come molte agenzie, molte città tra i combattimenti un paio di giorni fa hanno scritto. Gli israeliani, proprio imparando dagli errori commessi nella guerra del Libano, dove salivano sulle colline conquistandole a caro prezzo e poi una volta in cima si ritrovavano fermati, si ritrovavano colpite dalle colline attorno, da sempre da Hezbollah. Questa volta la tattica di Israele è sempre stata quella di movimenti veloci, rapidi, non fermarsi sulle posizioni conquistate. Per esempio le vittime del fuoco amico di ieri, dell'altro ieri, sono state proprio causate dal fatto che erano entrate, avevano cercato di fortilizzare una casa per ripararsi e poi sono stati involontariamente colpiti da una cannonata israeliana. Quindi insomma non c'è un ritiro da Khan Yunis, ma fa parte della normale strategia che sta adottando Israele in questi giorni. Di fatto però ci sono dei passi avanti dal punto di vista diplomatico, lo abbiamo detto anche nei nostri titoli. Israele ha annunciato un cessate il fuoco di 3 ore per permettere l'apertura di un corridoio umanitario. Come interpreti questo sì da parte dello Stato ebraico? Sì, Khan Yunis come Gaza restano sempre circondate come lo erano prima. Naturalmente Israele ha fermato solo per far passare questi aiuti. Del resto per tutta la settimana Israele aveva permesso il passaggio di decine di carri, di camion per gli aiuti umanitari. e per la prima volta, questa è la cosa più importante, oggi dopo 13-12 giorni di combattimenti le notizie diplomatiche sono più importanti delle notizie che vengono dal fronte. Naturalmente bisogna avere la pazienza di far lavorare la diplomazia e credo che Israele poi comunque cercherà ancora di resistere, perché bisogna come minimo di almeno altri 2-3 giorni di combattimenti per raggiungere i suoi obiettivi, e quindi temo che si vedranno ancora altri morti, altri combattimenti. Grazie Ugo Tramballi anche oggi per questi aggiornamenti. In apertura vi abbiamo parlato del maltempo nel centro nord, a Roma invece piove e la giornata è uggiosa particolarmente dalle parti del Partito Democratico. Sì, parliamo di una giornata virtualmente uggiosa appunto per il PD, perché questa mattina c'è il coordinamento sulla vicenda napoletana, lo ricordiamo, l'inchiesta sugli appalti truccati che ha coinvolto due assessori della giunta di centro-sinistra. Sta seguendo i lavori del coordinamento del PD la nostra Elisabetta Fiorito. Allora Elisabetta, che succede e cosa ci si attende che succeda soprattutto? Il coordinamento del Partito Democratico qui è ancora in corso nella sede di Sant'Andrea delle Fratte di Roma. Il segretario Walter Veltroni ha convocato i vertici del partito. Al centro, come avete già detto voi, sempre il caso Campania, e Veltroni annuncia che andrà a Napoli per insediare la prossima settimana il nuovo commissario della città, Enrico Morando. Il compito è quello di fare uscire il PD campano dal professionismo di partito, insomma di occuparsi solo di delibere e appalti. Lo scherzo però tra Veltroni e il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, continua. Veltroni critica aspramente la scelta del sindaco di aver registrato i colloqui con il segretario provinciale dimissionario Nicolais e il leader regionale Iannuzzi, e lunedì Nicolais si è dimesso in polemica con Iervolino perché non ha azzerato la giunta comunale. La scelta poi di Morando come commissario, dicono al partito, serve per garantire il rinnovamento, ma qui è arrivato anche Massimo Brutti, commissario per l'Abruzzo, e quindi si parlerà probabilmente anche del caso Pescara. Lo ricordiamo, il sindaco Luciano D'Alfonso ha ritirato le dimissioni nei giorni scorsi, ma la gestione del comune è comunque affidata al vice sindaco. Quindi siamo ancora in attesa di sapere quello che dirà Veltroni, che tra poco dovrebbe uscire e andare in commissione esteri, dove il ministro Franco Frattini riferirà sulla situazione in Israele. Grazie Elisabetta Fiorito. Noi Simone rimaniamo a Roma, ma per tutt'altra vicenda. Assolutamente, insomma, se il Partito Democratico si dibatte in queste difficoltà, c'è invece qualcuno che a Roma probabilmente festeggia. Festeggia in silenzio però, perché in Italia non si usa dichiarare la vincita alla lotteria o a giochi simili. Quest'anno il biglietto vincente ben 5 milioni di euro è stato venduto, come dicevamo, in una ricevitoria della capitale nella zona Balduina. E noi ci colleghiamo con la ricevitoria dove c'è la nostra Chiara Di Michele. Chiara, allora, raccontaci un pochino. Sì, buongiorno. Qui nella ricevitoria di Via Duccio Galimberti si festeggia dalle 8:30 di questa mattina, si stappano bottiglie di spumante e i clienti affezionati entrando fanno i complimenti alla proprietaria, la signora Drusiana Cello, che ora è qui accanto a me. Signora, come ci si sente ad aver venduto il primo premio della Lotteria Italia? Molto bene, contentissima, euforica e soddisfatta. Notizie del vincitore? Nessuna, non credo che si possa sapere, non lo so, dovrebbe essere un cliente di zona, però non lo so. Intanto, grazie signora, intanto qui si continua a brindare, ma soprattutto a giocare, perché chi non ha avuto fortuna con la Lotteria Italia adesso ci prova con il gratta e vinci. Da Roma è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara Di Michele, auguri dunque al vincitore, speriamo che faccia qualcosa di buono con questi 5 milioni di euro. A Chiara Di Michele raccomandiamo di brindare anche per noi. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Le forze armate israeliane hanno annunciato che da oggi interromperanno i bombardamenti sulla striscia di Gaza per 3 ore ogni giorno, accogliendo la richiesta della comunità internazionale di lasciare aperti i corridoi umanitari. Finora sono almeno 660 i palestinesi rimasti uccisi dall'inizio delle ostilità e circa 3.000 i feriti. E sul bombardamento di ieri di una scuola dove l'ONU ospitava rifugiati, sentiamo il colonnello Ofer Jacobi, portavoce dell'esercito israeliano. Noi abbiamo ricevuto fuoco da questa scuola. Davvero, per noi un bambino palestinese, un bambino ebreo, davvero è sempre un bambino. Comunque quando noi uccidiamo una cosa così è senza volere, è molto molto difficile per noi anche sapere che sono feriti o sono morti da noi. Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia. Disagi a Milano, Torino, Genova, Linate e Malpensa. I voli sono stati sospesi per alcune ore, come avete appena sentito. In che strada fa? Anche per le difficoltà del personale a raggiungere gli scali. E riaperti anche gli scali di Torino e di Bergamo, Orio al Serio. Chiuse le scuole a Genova. Ecco come sta lavorando in queste ore l'AMSA, l'azienda che gestisce i servizi ambientali di Milano. Mauro De Cillis, responsabile operativo. 130 mezzi grossi di lama neve, poi ce ne sono altri 220 un po' più piccoli che sono in giro per le salature, per gli altri interventi. In più abbiamo circa 564 palatori che sono in giro per la città, che sono orientati soprattutto sui punti mirati. Il flusso di gas dalla Russia all'Europa si sarebbe completamente interrotto nella notte, a dirlo è l'azienda ucraina Naftogaz. La circostanza è stata confermata dalla Commissione Europea ma smentita da Mosca. Fra poco sentirete l'intervista al ministro Scajola. Oggi coordinamento del Partito Democratico sulle vicende napoletane dopo le dimissioni del segretario regionale del PD Luigi Nicolais, provinciale del PD Luigi Nicolais, e polemica sulla decisione del sindaco Iervolino di registrare i suoi incontri con lo stesso Nicolais. Chi ha la coscienza pulita, dice lei, non teme le registrazioni. Il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro ha depositato questa mattina in Cassazione le firme 1 milione contro il lodo Alfano, che garantisce l'immunità alle più alte cariche dello Stato e al Presidente del Consiglio. Va a Roma il primo premio della Lotteria Italia, 5 milioni di euro. Vince il secondo premio un biglietto venduto a Ceccano, provincia di Frosinone, 3 milioni di euro. Il terzo premio, 2 milioni di euro a Pachino, provincia di Siracusa. Il quarto, 1,5 milioni a Dolo, provincia di Venezia. La crisi del gas fra Russia e Ucraina. Non c'è ancora chiarezza addirittura se le forniture verso l'Europa abbiano o meno subito un'interruzione. Paolo Piacenza, che cosa si sa? Una giornata sicuramente convulsa nella crisi del gas tra Russia e Ucraina. Questa mattina si era sicuramente ridotto, quasi azzerato, il flusso del combustibile proveniente dalla Russia che passa attraverso l'Ucraina. C'è stato un rimpallo di responsabilità e di accuse. Poi è arrivato l'annuncio che domani alle 12 ci sarà la ripresa delle trattative tra la compagnia ucraina Naftogaz Ucraini e la società russa Gazprom. In ogni caso la situazione, dicevamo, resta confusa, tanto che la Commissione UE ha trovato un accordo con il governo ucraino per inviare osservatori per misurare il flusso di metano. Perché questa mattina il portavoce di Naftogaz aveva annunciato che la Russia aveva interrotto tutti i rifornimenti di gas destinato all'Europa. Da Mosca era arrivata subito la smentita, la precisazione che i rifornimenti erano solo ulteriormente ridotti. Di fatto dalla mezzanotte il gas non arriva più in gran parte dell'Europa centrale, e in Italia l'Eni ha confermato che dall'una si sta registrando una sostanziale interruzione del gas proveniente dal gasdotto TAG, che è quello che passa dall'Ucraina e che interessa al nostro paese, ma la di Paolo Scaroni ha comunque rassicurato sul fatto che la situazione italiana è migliore rispetto ad altri paesi, ci sono riserve per passare l'inverno. L'Unione Europea ha reagito molto duramente, il premier ceco Topolane, che è presidente di turno dell'Unione, ha inviato una nota ufficiale e poi c'è stata una telefonata del presidente della Commissione dell'Unione Europea Barroso con il premier russo Putin. E in questa telefonata, in buona sostanza, Barroso ha sostenuto che l'UE considera entrambi i paesi responsabili della situazione e che in gioco c'è la reputazione dei due paesi. Domani i vertici di Gazprom e dell'Ucraina Naftogaz saranno all'Europarlamento. Il presidente di Gazprom vedrà il commissario per l'energia Biblgas. E questo è tutto. Grazie Paolo. Non è proprio tutto, perché tu poco fa hai intervistato il ministro allo sviluppo economico, Claudio Scajola, proprio su questi temi. Sentiamo. Noi siamo in questa condizione e siamo molto dipendenti dalla Russia per scelte miopi di questo paese, per cui se qualcuno ci chiude il rubinetto andiamo in difficoltà. Però è vero due cose. La prima, che l'inverno è stato mite fino a una settimana fa, non soltanto in Europa ma anche in Russia, i consumi sono stati ridotti e noi abbiamo in Italia delle riserve molto significative di gas. Secondo, con un decreto abbiamo massimificato la provenienza di gas, in particolare dal nord Europa e dalla Algeria, per cui riusciamo ad avere un'autonomia significativa anche senza il gas russo di provenienza ucraina. Evidentemente questo dipende poi da due fattori: quali saranno i consumi italiani e quanto durerà la crisi Russia-Ucraina. Sui consumi italiani dobbiamo dire che al momento non sono particolarmente significativi e quindi le scorte dovrebbero durare un periodo sufficiente a darci tranquillità. Nel contempo noi non siamo con le mani in mano, c'è un contratto con la Russia per avere il gas e noi pretendiamo che il contratto venga onorato. E quindi la trattativa russa-ucraina potrà durare ancora qualche giorno, qualche settimana, ma non potrà che sfociare con la consistente ripresa del flusso di gas verso l'Italia. Ecco, infatti ho visto una presa di posizione molto dura questa mattina del Presidente della Commissione Barroso, anche il Presidente Ceco Topolánek che ha assunto la il Premier Ceco Topolánek che ha assunto la Presidenza dell'Unione Europea di turno, intervenuto. Qual è la posizione dell'Italia all'interno del quadro europeo per mediare in questa guerra? Io ho convocato per domani mattina il Comitato dell'Emergenza per il gas con tutti gli operatori interessati e faremo il check-up a domani mattina in maniera esatta della situazione delle nostre scorte, dell'approvvigionamento e degli scenari possibili. Non farei nessun allarmismo, siamo in una situazione di tranquillità. Dopo questo incontro di domani riferirò in mattinata al Presidente del Consiglio Berlusconi sullo stato dell'arte e sulla nostra situazione energetica italiana per prendere eventuali ulteriori azioni di pressione sul governo russo ed ucraino. Però non posso non dire una cosa, lei me lo consentirà. Noi non possiamo più andare avanti con un paese dipendente in maniera quasi totale dagli altri, per l'85% delle nostre forniture dipendiamo da altri paesi. Ecco, è evidente che ci vuole una politica energetica, ecco perché questo governo ha dichiarato il rientro nel nucleare civile. Ecco, lei appunto accennando al nucleare diceva questa deve diventare la nostra unica fonte, leggevo oggi, non so se è esatto. No, unica fonte no, io sono dell'avviso che la tranquillità energetica passa attraverso un mix di energia, che sia fatto di gas, che sia fatto di petrolio, che sia fatto di energie alternative, ma che sia fatto anche di nucleare, affinché il prezzo dell'energia sia stabile, non sia il più costoso d'Europa. Oggi gli italiani pagano l'energia elettrica al 30% più degli altri paesi e soprattutto la sicurezza per i cittadini e per le imprese di non essere dipendenti dagli umori di altri paesi che possono chiudere il rubinetto quando vogliono. I tempi e i costi del nucleare non rischiano di essere eccessivi rispetto alla visione dei risultati, cioè al produrre, alla possibilità che producano dei risultati questo tipo di strategia? Sui tempi, se non si parte non si arriva, non si fosse abbandonato il nucleare oggi saremmo in un'altra situazione, si fosse ripreso prima il nucleare oggi lo avremmo. I tempi significa che noi ritendiamo che entro la fine di questa legislatura si possa iniziare la costruzione della prima centrale nucleare italiana. Sul problema dei costi, anche col petrolio ai prezzi bassi attuali, il nucleare è competitivo. Ma noi abbiamo bisogno di garantire sicurezza alla nostra economia e la sicurezza c'è con energia a costi stabili, sicura e non dipendente dagli altri. E questo era il ministro allo sviluppo economico Claudio Scajola, intervistato da Paolo Piacenza. Giulia Crivelli, se ne parla sui giornali internazionali? Sì, molto, perché la preoccupazione non riguarda solo l'Italia. Per esempio la Süddeutsche Zeitung ha sia un articolo di analisi e poi anche ha chiesto il parere a un esperto di energia. Per ora i tedeschi non resteranno al kalt, cioè al caldo, però il pericolo c'è. I tedeschi hanno una diversificazione diversa dalla nostra, cioè ricevono molto gas, anche molta energia, gas e anche petrolio dalla Norvegia, dall'Olanda. E però l'allarme è dopo i paesi Serbia, Bulgaria che già soffrono, dobbiamo stare attenti anche noi. Quindi soprattutto l'allarme in Germania è perché il prezzo, per come è strutturato il sistema tedesco, salirà immediatamente il prezzo del gas, perché ovviamente diventa più prezioso. L'allarme c'è anche sui giornali francesi che scelgono di, Le Figaro per esempio pubblica un'enorme foto delle centrali della EDF. Sappiamo i francesi, come diceva Scajola, sono in una situazione diversa dalla nostra, cioè hanno una una grandissima indipendenza energetica dovuta alle loro centrali nucleari, e queste centrali stanno marciando a massimo regime per comunque scongiurare in qualsiasi modo, probabilmente anche per crearsi delle riserve in modo da scongiurare qualsiasi pericolo, qualsiasi rischio, esatto, anche per loro. Giulia, parliamo di un tema più leggero, tempo di saldi. Ovviamente chi non ne sta approfittando, ma pare che nel mondo ci siano delle idee molto molto particolari sui saldi. Credo che sia un po' l'inverno dei saldi pazzi. Ci sono, i negozi erano pieni, la gente ha comprato meno prima di Natale, quindi per esempio in Gran Bretagna ci sono saldi dell'80-90%, ma la cosa che mi ha colpito di più sono quelli americani, dove sul New York Times per esempio c'è la foto di un negozio nel pieno Fashion District con delle sedie fuori con la scritta "queste sono per i mariti", quindi mentre le mogli fanno shopping all'interno con questi sconti incredibili, i mariti possono... Non è una cattiva idea, no, però. Per niente. No, i saldi non ci sono solo sull'abbigliamento, sempre in America, questa volta a Miami in Florida, questa è una notizia del Miami Herald, un concessionario addirittura propone il 2x1 sui SUV, compri un SUV e ne ricevi uno in regalo. Però, mica male questa offerta. Non male, sarebbe quasi da sfruttare, insomma, giocare sull'importazione, insomma. E vedremo naturalmente in Francia, dove sono iniziati oggi, cosa si inventa i francesi per stimolare i consumatori a comprare almeno durante i saldi. Grazie Giulia Crivelli. A proposito di francesi, si dovrebbe chiudere venerdì l'accordo tra Alitalia ed Air France, e oggi in realtà è stato rinviato. Comunque oggi è stato rinviato l'incontro tra Bossi e Berlusconi sul tema di Malpensa. Oggi però intanto Sabelli e Colaninno sono a Palazzo Chigi ad illustrare il piano industriale della nuova Alitalia. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Le forze armate israeliane hanno annunciato che da oggi interromperanno i bombardamenti sulla striscia di Gaza per 3 ore al giorno, accogliendo la richiesta della comunità internazionale di lasciare aperti i corridoi umanitari. Finora sono almeno 660 i palestinesi rimasti uccisi dall'inizio delle ostilità, 3.000 circa i feriti. Riaperti gli aeroporti di Milano, Torino e Bergamo dopo la forte nevicata della notte scorsa, ma è polemica sulla gestione dell'emergenza nel capoluogo lombardo. Sono caduti 40 centimetri di neve, ha detto il sindaco, contro i 20 attesi. Comunque manca il sale. Il flusso di gas dalla Russia all'Europa si sarebbe completamente interrotto nella notte, a dirlo è l'azienda ucraina Naftogaz. La circostanza è stata confermata dalla Commissione Europea, ma smentita da Mosca. Non possiamo essere ostaggio di Mosca e di Kiev, dice Barroso, il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, ai nostri microfoni. L'inverno è stato mite fino a una settimana fa, i consumi sono stati ridotti e noi abbiamo in Italia delle riserve molto significative di gas. Con un decreto abbiamo massimificato la provenienza di gas, in particolare dal nord Europa e dall'Algeria, per cui riusciamo ad avere un'autonomia significativa anche senza il gas russo. Oggi coordinamento del Partito Democratico sulle vicende napoletane dopo le dimissioni del segretario provinciale del PD Luigi Nicolais. Ed è polemica sulla decisione del sindaco Iervolino di registrare i suoi incontri con lo stesso Nicolais. Chi ha la coscienza pulita ha detto non teme le registrazioni. Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha intanto depositato questa mattina in Cassazione le firme, 1.000.000 contro il lodo Alfano, che garantisce l'immunità alle più alte cariche dello Stato e al Presidente del Consiglio. Va a Roma il primo premio della Lotteria Italia, 5 milioni di euro, mentre vince il secondo premio un biglietto venduto a Ceccano, provincia di Frosinone, con 3 milioni di euro. Oggi è una giornata importante per le vicende di Alitalia, perché i vertici della nuova Alitalia, Sabelli e Colaninno, presentano il piano industriale a Palazzo Chigi, mentre sempre nella sede della Presidenza del Consiglio, Alessandra, c'era un incontro. Un incontro previsto, Umberto Bossi avrebbe dovuto incontrare il Presidente del Consiglio Berlusconi sulla questione appunto di Malpensa, ma il maltempo ha bloccato il leader della Lega a Milano. E allora noi ci colleghiamo con Roma, Vincenzo Miglietta. A parte questo incontro mancato, che cosa sta accadendo? Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Si è svolto, questo è sicuro, molto presto questa mattina, con inizio alle 8, l'incontro a Palazzo Chigi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta e il presidente della CAI Roberto Colaninno. Quest'ultimo dovrebbe aver illustrato al governo le imminenti mosse della cordata italiana in merito all'ingresso nella nuova Alitalia di un socio di minoranza. Meno di sorprese dell'ultima ora, sarà Air France il partner industriale che accompagnerà il decollo vero e proprio della compagnia nata dall'unione di parte di Alitalia ed Air One. Il nodo da superare però è quello politico. politico, con la Lega che di fatto dice ancora no al socio franco-olandese, con Air France Malpensa sarebbe penalizzata, spiegano Calderoli e Castelli che puntano ancora su un'intesa con Lufthansa e comunque sul doppio hub Fiumicino-Malpensa. Berlusconi dalle pagine di Libero questa mattina intanto bacchetta la Lega ed invita gli alleati alla discrezione, allo stesso tempo il Premier garantisce tuteleremo sia Fiumicino che Malpensa, il tutto probabilmente si chiarirà domani nell'incontro Berlusconi-Bossi che, come dicevamo, è slittato proprio a domani ad orario di pranzo. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, e da Roma andiamo proprio a Malpensa, dove è in corso, dove si è svolta una manifestazione organizzata dal PD e dai lavoratori del settore cargo. Giovanni Capuano, che cosa è successo? Beh sì, insomma, manifestazione che si è chiusa da pochi minuti in attesa del Malpensa Day che domani porterà nell'ex hub varesino politici e amministratori locali. Oggi nel salone dello scalo, già paralizzato per le avverse condizioni meteo, è andata in scena la protesta dei lavoratori. Circa 200 hanno sfilato in rappresentanza delle centinaia che dal prossimo 13 gennaio rischiano di restare a casa a causa della sospensione dell'attività cargo. In tutto sono più di 300, CAI come è noto non ha rilevato il settore cargo e in attesa di un nuovo soggetto da martedì prossimo i 5 aerei che ogni giorno movimentano il 50% delle merci italiane resterà a terra. I lavoratori hanno scritto una lettera a Berlusconi chiedendo di non abbandonare un settore così strategico, la loro protesta è però solo la prima di una serie di manifestazioni annunciate, basti pensare che dall'aprile scorso, secondo alcune stime dei sindacati, già 1000 persone sono state messe in cassa integrazione a Malpensa da aziende che operano nell'aeroporto, in più ci sono da contare anche i 500 contratti a tempo determinato non rinnovati e alcune decine di licenziamenti, numeri che ora rischiano di moltiplicarsi drammaticamente e che non tengono conto dell'indotto sul territorio circostante. Non più tardi di qualche giorno fa il sindaco Moratti ha detto che la chiusura del settore cargo porterebbe su Milano e la sua provincia una crisi occupazionale più grave di quella già attraversata alcuni anni fa con la chiusura dell'Alfa di Arese. Da Malpensa è tutto, se non avete domande linea a voi. E Giovanni, facevi cenno appunto alla questione meteo, anche tu un breve aggiornamento, insomma Malpensa adesso ha riaperto ai voli? Sì, Malpensa ha riaperto ai voli, da circa un'ora sono stati chiamati all'imbarco i primi fortunati, 3 voli, uno per Monaco di Baviera, uno per Francoforte e uno per Londra. Complessivamente sono stati cancellati sin qui una 60 di partenze, ma anche i voli che sono stati mantenuti nel programma accusano ritardi pesantissimi. Sui tabelloni ho avuto modo di vedere ad esempio un volo per Vienna delle 7.40 di questa mattina, riprogrammato ben oltre le 20, un volo per El Alamein con 11 ore di ritardo, 6 ore per Barcellona e in genere ritardi non inferiori alle 2 ore. Alcuni passeggeri bivaccando hanno già ricevuto informazione che il loro volo non potrà prendere la pista prima di domani, dunque si stavano attrezzando i non milanesi per poter passare giornata e notte in aeroporto. Grazie Giovanni per questi aggiornamenti, bene ha fatto quindi Umberto Bossi a rimandare a domani il suo incontro con Silvio Berlusconi. Vi abbiamo parlato nella prima parte di Extra Large dei problemi del Partito Democratico, veniamo ora allo scomodo alleato del PD, ossia Antonio Di Pietro. Oggi sono state depositate le firme dallo stesso Antonio Di Pietro per il referendum contro il lodo Alfano. Le hanno portate alla Corte di Cassazione a bordo di 2 furgoni. Sono oltre 1 milione, il doppio di quanto previsto dalla legge, le firme raccolte dall'Italia dei Valori per chiedere il referendum contro il lodo Alfano, la legge che sospende i processi per le 4 più alte cariche dello Stato. Secondo il leader del partito, Antonio Di Pietro, si tratta di un provvedimento che lede i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione e del quale beneficerà soltanto Silvio Berlusconi. Le firme che abbiamo raccolto contro il lodo Alfano non sono solo un fatto tecnico, ma un fatto politico importante, perché ci sono milioni di cittadini che dicono no al governo che si fa le leggi per non farsi processare. Soprattutto dicono sì ad una giustizia sociale uguale per tutti. Alla raccolta delle firme, iniziata lo scorso 11 ottobre nella manifestazione di Piazza Navona, ha contribuito anche Rifondazione Comunista, il segretario Paolo Ferrero. C'è una parte della sinistra che ritiene che non si può fare la riforma della giustizia fatta su misura dei poteri forti e che invece vuole che il popolo possa dire la sua su questa questione, e col referendum si potrà dire che non si vuole una giustizia di casta come quella che sta facendo il governo Berlusconi. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una nuova emergenza rifiuti, stavolta riguarda un centinaio di comuni del Salento. Da 4 giorni i cittadini di Ugento, provincia di Lecce, presidiano la discarica di Burgesi, ormai esaurita. Oggi tra l'altro c'è un vertice a Lecce fra gli amministratori locali per cercare di risolvere la situazione, ma sentiamo com'è appunto questa situazione delle discariche da Daniele Fortini, presidente della Federambiente, che riunisce i soggetti che gestiscono i servizi di igiene e risanamento ambientale. La situazione al momento è difficoltosa, perché gli impianti di piano, che dovevano essere ultimati entro il 2008, hanno un ritardo nella costruzione di circa un mese, forse qualcosa più, e quindi occorre continuare ad adoperare gli impianti esistenti, si parla di discariche ovviamente, per guadagnare il tempo necessario a far sì che quelli di piano siano ultimati. In questo senso si parla della discarica di Corigliano ovviamente, che è quasi ultimata, c'è necessità però di ancora qualche settimana di tempo prima di averla nella piena disponibilità. Ma si rischia una nuova Napoli, nel senso vedremo sacchetti dell'immondizia abbandonati per strada, insomma queste discariche che esistono sono in grado di tamponare la situazione per questo mese? Assolutamente sì, la regione Puglia è quella più dotata di impianti di discarica, della possibilità quindi di fronteggiare situazioni di emergenza. No, non credo che andremo in una situazione simile a quella della Campania, però resta una regione in affanno che realizza con enorme ritardo impianti per l'autosufficienza. Quindi possono esserci situazioni di emergenza come quelle di questi giorni, ma sono più determinate da fattori politico-locali che non da un deficit tecnico di capacità di fronteggiamento della crisi. Quanti sono i paesi coinvolti da questa emergenza? Beh, complessivamente si parla di un centinaio di comuni, dopodiché occorre anche sottolineare il fatto che mentre a Bari, per esempio, si è riusciti a raggiungere nel mese di novembre il 23% di raccolta differenziata, ancora nel Leccese siamo purtroppo a cifre assolutamente insoddisfacenti. E ora una storia di mare, una storia di mare e di ghiacci molto particolare. È caccia grossa nelle acque della Groenlandia. La NASA ha sguinzagliato i suoi migliori uomini e si sussurra anche di vascelli spia russi col sospetto che abbiano catturato 90 ostaggi. Caccia Ottobre Rosso, insomma, in piena regola. Gli scomparsi in questione sono però 90 natroccoli. O meglio, 90 natroccoli di gomma, quelli gialli e buffi che si usano per i bagnetti dei neonati, per intendersi. Il motivo di tanta apprensione è che il loro cuore batte, e come. Al loro interno la NASA ha inserito un dispositivo elettronico e li ha poi liberati nei freddi mari del polo per studiare il cambiamento del clima, i movimenti dei ghiacci e i flussi delle correnti marine. Uno studio che ha visto in prima fila gli esperti di robotica che hanno costruito i sofisticati congegni mandati ad esplorare Marte. Dai pennuti di gomma però non più un bip. Così ora c'è chi sussurra di fantomatici rapimenti e spy story da KGB. D'altra parte, sulle paperelle in mare non c'è nulla da ironizzare. Anni fa un cargo cinese perse in mare 29.000 paperelle giocattolo e da anni navigano avvistate qua e là da marinai di tutto il mondo, ma anche inseguite da scienziati illustri che proprio grazie a loro hanno imparato molto sulla dinamica delle correnti. Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie più importanti della giornata. Le forze armate israeliane hanno annunciato che da oggi interromperanno i bombardamenti sulla striscia di Gaza per 3 ore ogni giorno, accogliendo la richiesta della comunità internazionale di lasciare aperti i corridoi umanitari. Poco fa anche Hamas ha fatto sapere che interromperà per 3 ore al giorno i lanci di razzi. Finora sono almeno 660 i palestinesi rimasti uccisi durante l'offensiva su Gaza. Vediamo l'emergenza maltempo. Riaperti gli aeroporti di Milano, Torino e Bergamo dopo la nevicata della notte scorsa, ma è polemica sulla gestione dell'emergenza nel capoluogo lombardo. Sono caduti 40 centimetri contro i 20 attesi, ha detto il sindaco Moratti, e manca il sale. Il flusso di gas dalla Russia all'Europa si sarebbe completamente interrotto nella notte, a dirlo è l'azienda ucraina Naftogaz. La circostanza è stata confermata dalla Commissione europea ma smentita da Mosca. Non possiamo essere ostaggio di Mosca e Kiev, dice il presidente della Commissione europea Durao Barroso. Il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola tranquillizza sulla situazione italiana. L'inverno è stato mite fino a una settimana fa, i consumi sono stati ridotti e noi abbiamo in Italia delle riserve molto significative di gas. Con un decreto abbiamo massimificato la provenienza di gas, in particolare dal nord Europa e dall'Algeria, per cui riusciamo ad avere un'autonomia significativa anche senza il gas russo. Oggi coordinamento del Partito Democratico sulle vicende napoletane dopo le dimissioni del segretario provinciale del PD Luigi Nicolais ed è polemica sulla decisione del sindaco Iervolino di registrare i suoi incontri con lo stesso Nicolais. Chi ha la coscienza pulita, ha detto la Iervolino, non teme le registrazioni. Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha depositato questa mattina in Cassazione le firme 1 milione contro il lodo Alfano, che garantisce l'immunità alle più alte cariche dello Stato e al Presidente del Consiglio. Va a Roma il primo premio della Lotteria Italia, 5 milioni di euro, mentre vince il secondo premio un biglietto venduto a Ceccano, provincia di Frosinone, con 3 milioni di euro. Come vi abbiamo detto anche nei titoli, si inizia a parlare di una tregua, perlomeno temporanea, per consentire l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Vi abbiamo già riferito di Israele, che ha dato il suo ok a cessare i bombardamenti per 3 ore al giorno per permettere appunto l'arrivo di aiuti umanitari. Ebbene, poco fa è arrivata anche la risposta di Hamas, che ha deciso di bloccare per 3 ore al giorno, le stesse 3 ore, naturalmente, i lanci di razzi Qassam verso le città di confine israeliane. Ma oggi si parla molto anche della strage di ieri nella scuola. L'artiglieria israeliana ha colpito appunto una scuola dell'ONU a Gaza, dove avevano trovato rifugio decine di palestinesi, almeno 30 i morti, fra cui molti bambini. Ecco come ha commentato l'accaduto Mohammed Rade, primo segretario della delegazione palestinese in Italia, intervenuto questa mattina a viva voce. C'era un massacro ieri, 42 persone, quelli che sono ceduti lì in quella scuola. Non credo che bisogna trattare il popolo palestinese da parte di Israele in questa arroganza e non dare peso alla comunità, purtroppo, alla comunità internazionale o alle convenzioni internazionali, ai diritti umani ed internazionali. Non devono passare questi massacri senza che la gente che dà ordine o esegue ordine non vengono portate alla Corte Internazionale di Giustizia. Cosa... Mi dispiace sentire in questi nuovi termini come uso eccessivo della forza al posto dei massacri. E questa è la replica del tenente colonnello Ofer Jacobi, portavoce dell'esercito israeliano, sempre al microfono di Alessandro Milan. E abbiamo provato a non reagire per tanto tempo e io non conosco neanche un governo al mondo che starà zitto, non so, per 8 anni, per più di 10.000 missili che più di 50% sono arrivati durante gli ultimi 2 anni. Allora adesso abbiamo pensato che enough is enough, basta e basta, e dovevamo fare una cosa per finirlo. Senz'altro il punto è che noi abbiamo ricevuto fuoco da questa scuola. Davvero, per noi un bambino palestinese, un bambino ebreo, davvero è sempre un bambino. Comunque quando noi uccidiamo una cosa così è senza volere, è molto molto difficile per noi anche sapere che sono feriti o sono morti da noi. E sentiamo come sta reagendo il mondo arabo in queste ore, ecco cosa dicono i giornali. Il nostro Adib Fateali. Fortissimo eco sulla stampa araba di oggi per la strage nella scuola dell'ONU a Gaza, che ieri ha provocato decine di vittime civili, in maggioranza bambini e donne. Carneficina di Israele, titolano all'unisono i maggiori quotidiani. Lo sgomento provocato dalla strage non oscura però la prima dichiarazione del presidente eletto USA, che ieri si è detto preoccupato per le vittime civili. Il saudita Al-Watan, il sarcastico, titola: finalmente Obama ha apostrofato qualcosa. Ma la maggior parte dei commentatori nota che è la prima volta che un presidente americano usa termini diversi dall'appoggio totale a Israele. Adif Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora andiamo in Africa, per la precisione in Camerun, paese di cui si parla poco. Ecco il reportage del collega del Sole 24 Ore, Riccardo Barlam. Vi parlo da Fontem, un villaggio nella foresta tropicale, in Camerun. Sono qui 3 settimane per tenere un corso di formazione a giornalisti africani. Ho portato con me, dopo varie peripezie, dei computer nuovi, dei microfoni, cuffie, un registratore da lasciare qui, per la radio locale. Ci sono 30 di partecipanti al mio corso, insegnanti, studenti, giornalisti della radio locale. Con loro abbiamo dato vita a un sito di notizie africane, di news africane, che poi al mio ritorno in Italia continueranno ad aggiornare. Il sito è già online, l'indirizzo per chi volesse è africa-times-news.com. Dopo 2 giorni di scuola ho scoperto che tutti i partecipanti avevano già ricevuto un tesserino da reporter con tanto di foto rilasciato dalla radio locale. Sono ospite di una famiglia africana, vivo con loro, qui gli alberghi internazionali non ci sono. La cosa più interessante che sto scoprendo è il contatto con la cultura tradizionale africana, l'Africa dei villaggi, il calore della sua gente, il senso di comunità, l'ospitalità che qui è sacra. Sul mio blog, sul sito del Sole 24 Ore, ogni giorno racconto un pezzo di questo viaggio. Il popolo che abita qui a Fontem, i Bangwa, negli anni 60 rischiava l'estinzione per la malaria e l'elevata mortalità infantile. Il loro re, che si chiama Fon, il re di questa tribù, chiese aiuto a un vescovo e il vescovo chiese aiuto al movimento dei focolari. I primi missionari laici, medici, ingegneri, infermieri, sono arrivati allora negli anni 60. Hanno costruito un ospedale che serve tutta l'area che ha 300.000 abitanti, una scuola, una cittadella. Oggi non si muore più per la malaria e la mortalità infantile è diminuita. È bassissima. E proprio in questi giorni, venerdì e sabato, il popolo Bangwa ha organizzato un funerale tradizionale, un funerale postumo per Chiara Lubich, la fondatrice dei focolari morta nel marzo 2008. E qui la chiamano Mafuandem, una mamma inviata da Dio. Sarà una festa per 2 giorni, con danze e canti tradizionali. Riccardo Barla, GR24, Sole 24 Ore, Fontem, Camerun. E potete trovare i reportage di Riccardo Barlam sul suo blog africa.blog.ilsole24ore.com. E ora torniamo a parlare dell'emergenza neve a Milano, perché ci sono delle novità. Roberta Pellegatta. Sì, ci sono delle novità, nel senso che il presidente della provincia di Milano ha deciso di chiudere le scuole superiori per la giornata di domani, però attenzione, soltanto le scuole superiori. Proprio poco fa si è conclusa la conferenza stampa del sindaco Moratti, che invece aveva detto, insomma, aveva sottolineato la bontà della decisione di lasciare aperte le scuole oggi. È una decisione che spetta ai genitori, secondo lei, e peraltro le scuole pubbliche di Milano oggi rappresentano l'85% dei bambini. In realtà poi la decisione invece del presidente della provincia è di chiudere per domani le scuole superiori, e questo non dovrebbe provocare comunque problemi o traumi ai genitori, perché i ragazzi, insomma, sono già grandi, ai genitori che lavorano, intendo. Grazie Roberta Pellegatta per questo aggiornamento. Noi andiamo oltre oceano, perché parliamo della prima volta senza Steve Jobs, ossia l'appuntamento annuale della Apple Computers che si è svolto ieri. Il grande Tony Bennett chiude così la prima giornata del Macworld. Canta "Ho lasciato il mio cuore a San Francisco", ed è così che sarà per milioni di fan della mela. L'ultimo Macworld per la Apple, dopo più di 10 anni di successi, verrà ricordato soprattutto per l'assenza di Steve Jobs, rimasto a casa per un problema ormonale, almeno ufficialmente, e non, come le voci in rete ripetono da un po', per una recidiva del tumore al pancreas che lo aveva colpito 4 anni fa. Un ultimo atto in tono minore affidato al numero 2 dell'azienda, Phil Schiller, quasi a dire che senza Jobs le novità, che pur esistono, non sono però da fuochi d'artificio. Ci sarà un nuovo computer portatile con schermo da 17 pollici e una super batteria da 8 ore e 1000 cicli di ricarica, ma la novità forse più interessante riguarda la musica. Finalmente anche su iTunes si potranno comprare canzoni senza restrizioni, si potranno spostare, copiare e ascoltare a passeggio anche senza un iPod. E in un mercato che nel 2008 è già arrivato al miliardo di canzoni scaricate e dove il negozio Apple mantiene il primato, la mossa fa intravedere alle case discografiche un'ulteriore crescita delle vendite. La Apple si prepara così all'era del dopo Steve Jobs, ma il vento del cambiamento soffia su tutta l'industria dell'elettronica di consumo. Le prossime notizie arriveranno dal Consumer Electronics Show, che si apre tra poche ore non lontano da San Francisco, nel deserto del Nevada, a Las Vegas. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. Un calciatore napoletano contro il film Gomorra. Sentiamo perché. Spesso i calciatori si lamentano, soprattutto quelli più famosi. Dicono di essere banalizzati, che la stampa fa domande sciocche, che vengono equiparati alle veline, come se non avessero un cervello ma solo 2 piedi e contratti milionari. In questa ultima sortita di Fabio Cannavaro, capitano della nazionale e difensore del Real Madrid, rilasciata al settimanale Chi, purtroppo il nostro ambasciatore del calcio se la canta e se la suona. Testualmente dice: «Per il cinema italiano spero che Gomorra vinca l'Oscar, ma non penso che gioverà l'immagine dell'Italia nel mondo, abbiamo già tante etichette negative. Un mio compagno di squadra mi ha detto: italiano? Mafioso. Bene, anzi male». Cannavaro ha tutto dalla vita, è ricco, famoso, ascoltato da un sacco di ragazzi per i quali lui è la personificazione dei sogni. Aveva un'occasione, quella di dire che Roberto Saviano, scrivendo Gomorra, ha avuto quel coraggio civile che tanti italiani, e non solo italiani, si sognano. Che nella vita certe volte bisogna uscire allo scoperto, tirare quel famoso calcio di rigore. Invece Cannavaro dice la cosa più banale, che è meglio non parlare di mafia, perché se no all'estero chissà che cosa pensano. Pensano proprio questo, che quando è il momento di venire fuori, noi italiani ci nascondiamo. Anche i capitani. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Malpensa, Linate, Caselle riaperti dopo la nevicata di questa notte, ma ci sono fortissimi ritardi. Domani e dopodomani scuole superiori chiuse a Milano. Gas, Putin ordina il blocco di tutte le forniture verso l'Ucraina. Ci dice il ministro Scajola, siamo tranquilli. Barroso all'attacco, non possiamo essere ostaggio di Mosca e Kiev. A Gaza si parla di tregua, Israele accetta di fermare i bombardamenti per 3 ore al giorno per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. Il PD ad una nuova resa dei conti. Oggi il coordinamento del partito dopo le dimissioni di Nicolais da segretario provinciale di Napoli. Il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, ha depositato questa mattina in Cassazione le firme, 1 milione contro il lodo Alfano. Va a Roma il primo premio della Lotteria Italia, 5 milioni, mentre vince il secondo premio un biglietto venduto a Ceccano, provincia di Frosinone. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Cece, con in regia Fabio Cantadori.